Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo anche dai dati che sono arrivati oggi, ahimè, sulla disoccupazione, ma non solo, anche sugli scoraggiati, cioè chi vorrebbe trovare un lavoro ma non riesce a trovarlo. Sommando le due cose, oggi l'Istat ci fa sapere che sono 5, se si sommano i disoccupati in senso stretto e gli sfiduciati, che sarebbero gli inattivi disponibili a lavorare, siamo a 5 milioni e 700 mila persone. Lo dico perché oggi continua anche il nostro viaggio in quelli che saranno i temi domani, nella due giorni della piccola industria di Confindustria, oggi anche altre dichiarazioni del presidente degli industriali Squinzi. Ci occuperemo anche della vicenda Telecom Italia, perché si è concluso dopo circa 6 ore il consiglio di amministrazione di Telecom e sul tavolo la proposta di Hutchison Whampoa per un'integrazione di Tre Italia nel gruppo guidato da Franco Bernabè. Il matrimonio porterebbe il nuovo colosso delle telecomunicazioni a una quota di mercato in Italia del 43%. Tre consiglieri di Telecom, in rappresentanza di Telco, affiancheranno il presidente Franco Bernabè nel suo mandato esplorativo per l'integrazione con Tre Italia, e questo lo si è appreso da fonti qualificate. E la procedura è motivata dal carattere dell'operazione, che avrebbe ricadute sia su Telecom che sulla controllante, che è uno dei soci più importanti, e quindi la Telco, che è il principale azionista con il 22,4%. Dentro Telco troviamo la spagnola Telefonica, che ha il 46%, il gruppo Generali, che ha il 30%, Mediobanca, che ha l'11,5%, Intesa San Paolo, che ha un altro 11,5%. Parleremo in apertura anche della conclusione del Vinitaly. Ieri abbiamo saltato l'appuntamento, però il bilancio è più che positivo, ogni tanto qualche notizia positiva c'è, un 10% di aumento dei visitatori, ottima quindi la risposta anche e soprattutto degli stranieri alla una delle più importanti manifestazioni per quello che riguarda il settore vitivinicolo a livello europeo, e poi il tema dell'andamento dei rendimenti dei nostri titoli di Stato e della Borsa. Ha ragione chi scrive già al 349-238-6666, ho visto ieri anche alcuni messaggi sulla pagina di Focus Economia su Facebook, ha ragione chi dice i rendimenti calano, lo spread cala, non perché vi sia chissà quale fiducia o schiarimento nella situazione politica italiana, ma perché quando gli Stati Uniti fanno sapere che continueranno a pompare liquidità, e soprattutto il Giappone avrà questo atteggiamento molto aggressivo, il segnale è di acquisti anche di titoli di Stato europei, cioè c'è molta liquidità in giro che deve trovare uno sbocco. La politica giapponese è ancora più aggressiva in questo momento di quella americana, nelle intenzioni perlomeno, quindi tassi di interesse molto bassi e stampare moneta attraverso l'emissione di titoli di Stato che vengono comprati dalla banca centrale, in modo da, anche se si becca un po' di inflazione, aumentare la liquidità nel paese, quindi far ripartire l'economia, che è un atteggiamento direi quasi diametralmente opposto rispetto a quello europeo, perlomeno secondo chi vorrebbe un'Europa tutta di rigore e bassa inflazione a costo di beccarsi la disoccupazione che ci stiamo beccando. E questo per quello che riguarda i temi che stanno conducendo in questo momento il mercato delle obbligazioni. Sul fronte azionario invece la borsa va bene, più 0,70%, più 1,1% invece Parigi, più 0,80% Francoforte, più 0,50% Londra e più 0,44% gli Stati Uniti. Fortissima oggi Mediaset, più 8,70%, sappiamo che quando Mediaset si muove anche su ragionamenti a cavallo tra politica e economia. In questo caso però la controllata Hightower si prepara a lanciare un'obbligazione e ha ottenuto il voto da Fitch. Vedremo poi nel corso dell'approfondimento dei mercati finanziari se vi siano anche ragionamenti di carattere più politico. Più 8,91% a 1,79€. ST Microelectronics più 3,13%, Mediolanum più 2,40%, Finmeccanica più 2,20%, come il Monte dei Paschi, il 2% lo guadagna Telecom Italia, l'1,5% Saipem e Snam, ma anche la Popolare Emilia Romagna, l'1,40% lo guadagna Unicredit, ma anche le Generali, l'1,30% rialzo di A2A, Atlantia più 1,20%, Fiat più 1% come Terna. Fronte opposto, Ferragamo meno 1,1% come Campari e Autogrill, Pirelli meno 0,70%, Mediobanca meno 0,70% anch'essa, Banco Popolare meno 0,60% come la Popolare di Milano. Euro in rafforzamento sul dollaro a 1,31,13. Dicevo 349-238-6666 per i vostri sms, come sempre la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo dall'oro che è stabile a $1,560 al barile, ma all'oncia. Ma si è saputo che gli analisti della banca d'affari americana Goldman Sachs suggeriscono di vendere oro. Si attendono infatti una quotazione media del metallo giallo di $1,545 l'oncia quest'anno e di $1,350 nel 2014. Il fatto che i timori per la zona euro e anche i dati deludenti sull'economia americana non abbiano provocato rialzi significativi sull'oro è un segnale, secondo gli analisti di Goldman Sachs, che l'oro viene oggi considerato un investimento meno sicuro rispetto a un anno fa. In Argentina sono introvabili, o meglio, nessuno è più disposto a fornire un'assicurazione contro una nuova insolvenza argentina. Ricordate, ne abbiamo parlato parecchie volte, i CDS, ossia Credit Default Swaps, la polizza che si paga per assicurarsi contro il rischio fallimento, in questo caso di Buenos Aires, sono praticamente introvabili e con quotazioni quasi greche, 2.377 punti. Questo vuol dire che secondo gli analisti c'è una possibilità dell'81% che il paese sudamericano possa nuovamente finire in bancarotta in tempi brevi. Ci spostiamo in Europa, è un dato da record, come era immaginabile quello sulla disoccupazione in Grecia, il 27,2% contro un 25,7% a dicembre del 2012. La disoccupazione giovanile, ma lo dico perché non dimentichiamoci della Grecia, ha toccato ormai il 60%. Cioè, la ricetta imposta alla Grecia sta portando la disoccupazione a record di mese in mese. Ormai un greco che abbia tra i 15 e i 24 anni, o meglio, 10 greci tra i 15 e i 24 anni, 6 sono disoccupati. La Banca Centrale Europea oggi nel frattempo fa sapere che vi sono rischi sulla ripresa nel secondo trimestre perché la debolezza economica del 2012 si è trascinata nella prima parte di quest'anno, l'orientamento della politica monetaria resterà accomodante, quindi i tassi resteranno bassi e devo dire che purtroppo qui stiamo vivendo un déjà vu e una fotocopia. Perché ogni anno, ormai dal 2011, vediamo previsioni diffondersi l'anno precedente, cautamente ottimistiche. Poi, come si scopre che la frenata è più forte del previsto, iniziano le revisioni a ribasso. Quest'anno dovevamo fare, un anno fa c'era stato detto che il 2013 addirittura sarebbe stato un anno di ripresa, poi di una debole recessione meno 0,5, poi meno 1, adesso l'ultima stima del governo è meno 1,3% e siamo ancora ad aprile. Comunque la stessa Banca Centrale Europea fa sapere che i ritardi di alcuni paesi nelle riforme strutturali sono un rischio per la ripresa e poi sottolinea come il tasso di disoccupazione a fine del 2012 nell'area euro abbia raggiunto livelli senza precedenti. Con dati che a febbraio di quest'anno vedono la disoccupazione al 12% e segnalano un ulteriore calo dei posti di lavoro nel primo trimestre del 2013. Io vorrei fare una domanda a chi ha guidato la politica europea in questi due anni, arrivando a questo brillante risultato di una disoccupazione a record. Ma secondo voi vota in maniera più rabbiosa, cioè chi dice antipolitica, con la pancia, il voto di protesta, una persona che è disoccupata o una persona che vive con un po' di inflazione, non so, al 3-4%, che è il grosso terrore tedesco? Chiedo, il voto di protesta che tanto temono i governanti europei si ottiene con i disoccupati o si ottiene con perché uno va a fare la spesa e vede che i prezzi sono aumentati ma ha un lavoro? Il richiamo di ieri dell'Unione Europea a non mollare sui problemi strutturali, il rischio contagio ancora esiste per l'Italia, condivide questo richiamo il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera oggi in visita al Salone del Mobile, e poi ha aggiunto Passera per quello che riguarda i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese debitrici. Ha detto speriamo di arrivare almeno a 60 miliardi nei prossimi 12 mesi, dai 40 previsti, e quindi aumentare la cifra con emissioni dedicate a rimettere una cifra importante nell'economia. Ascoltiamolo al microfono della nostra Irene Privitera, proprio dal Salone del Mobile di Milano. Noi sappiamo che dobbiamo percorrere una strada stretta che permetta al nostro paese di ricominciare a crescere in maniera sostenibile. È chiaro che non ci sono risorse in eccesso per lavorare sul fronte della domanda, anche se alcuni interventi forti, per esempio nel campo delle ristrutturazioni edilizie, sono state fatte. È chiaro che non possiamo far venir meno la credibilità del nostro paese dal punto di vista della tenuta, della solidità dei conti pubblici, e questo non è fuori discussione. Il fatto di aver adesso procurato, identificato 40 miliardi che noi speriamo, come dice il decreto pagamenti, che possano arrivare probabilmente a 60 nel corso dei prossimi 12 mesi, con delle emissioni dedicate appunto a rimettere nell'economia una cifra che è comunque importante, 40 miliardi sono quasi 3 punti di PIL, 60 sarebbero 4 punti di PIL, va proprio nella direzione di alleviare la difficoltà che si è accumulata nel tempo. C'è una notizia che va presa con le pinze, ne parleremo più avanti con il presidente dei piccoli industriali di Confindustria, che domani appunto organizza queste due giorni di convegno. Ma c'è una notizia che ci ha lasciato molto perplessi, perché secondo la Confederazione Nazionale Artigiani, la CNA, dentro il decreto che fa partire i primi pagamenti di debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese, vi sarebbe un nuovo appesantimento degli oneri amministrativi e burocratici su imprese e cittadini. Dice infatti la CNA sono in arrivo oneri fiscali e costi burocratici per 10 miliardi di euro. Io spero che sia una stima per eccesso, che si sbagli. Un'ultima notizia prima della nostra rubrica, tra l'altro sui pagamenti della pubblica amministrazione, segnalo che domani il Sole 24 Ore avrà una guida vera e propria al decreto dei pagamenti della pubblica amministrazione, come sbloccare i pagamenti della pubblica amministrazione, una guida per le imprese e per gli enti locali, in 16 pagine con tutti i dettagli del nuovo decreto. Dicevo, un'ultima notizia e poi passiamo alle varie amenità della spesa della nostra pubblica amministrazione. Riguarda un sequestro di beni, di cui vi hanno già parlato i nostri GR, per 12 milioni di euro a carico della società Sette Mari, dei deputati del PDL Denis Verdini e Massimo Parisi e di altre persone. Lo ha stabilito e lo ha deciso oggi la Procura di Firenze e lo ha effettuato la Guardia di Finanza come sequestro preventivo, e il provvedimento legato ad un'inchiesta per truffa per presunta indebita percezione di fondi per l'editoria. Arriviamo anche al Vinitaly tra un attimo. È un bilancio più che positivo, ripeto. Il 10% di crescita nei visitatori, nelle presenze, non è poca cosa in questo periodo di austerità. Però devo tornare oggi al nostro appuntamento su come vengono utilizzati i soldi della nostra pubblica amministrazione in senso appunto lato, enti locali, regionali e chiaramente anche a livello nazionale. Abbassare, potrebbe più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni. Drecche più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Evasori legalizzati. Drecche più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Drecche più. Oggi però ce la prendiamo anche con l'Europa, perché voglio dire, io non ho nessun tipo di atteggiamento anti-europeo, però anche se spendessero un po' meno i parlamentari e la macchina del Parlamento europeo non sarebbe male. E invece il Parlamento europeo continua ad espandersi, la sede attuale di Bruxelles, che consta già di 4 edifici, nonostante questo l'Eurocamera continua a lamentare mancanza di spazio e ha deciso di affittare per 12 anni, a partire dal 31 marzo 2014, un edificio di 40.000 metri quadrati in cui saranno trasferiti uffici di deputati e assistenti in attesa che venga costruita un'ala supplementare definitiva. Edificio aggiuntivo dotato di 11 piani e ampi parcheggi, oltre ad un ristorante privato. Vabbè, il problema è che a questo punto trasferiamo anche tutta l'attività legislativa lì, così paghiamo una volta sola. 40.000 metri quadrati mi sembrano un po' tantini. Detto ciò, non voglio toccare il tema della casta al contrario, cioè adesso delle volte si esagera, nel senso che bene ha fatto a nostro avviso, seppure non è da lì che vengono i risparmi, e consistenti il Pirellone, la Regione Lombardia, a abolire tutti i privilegi per consiglieri e assessori sulla brioche, i panini, il cappuccino alla buvette del consiglio, però e quindi il prezzo del caffè è passato dai 68 centesimi a 1 euro, e quasi raddoppiate le birre estere in lattina da 1,90 euro a 3,60 euro, la frutta da 0,80 a 1,85 euro, lo sfilatino da 3,50 euro per il panino al prosciutto, si è passati, cioè si è arrivati a 3,50 euro per un panino al prosciutto contro i 2,20 euro. Potrei andare avanti, no? La bresaola e formaggio da 3,80 euro a 4,50 euro. La cosa un po' strana è che questa volta il prezzo politico è quello alto, e però non lo pagheranno questo prezzo tutti gli altri visitatori, i dipendenti, i visitatori, gli ospiti, le autorità, compresi i giornalisti. Ora, a me sembra corretto dire che, insomma, se c'è un listino unico, io capisco per i dipendenti, ma tutti gli altri, compresi i giornalisti, potrebbero pagare tranquillamente quello che pagano i consiglieri e gli assessori. Cioè, perché privilegiare i giornalisti o i visitatori esterni, gli ospiti, le autorità? Vabbè, se un'autorità ce l'avrà i soldi per il caffè, no? Se no puoi pagare anche 1,50 euro in più a un'autorità. Però la vita degli assessori nella Regione Lombardia si è fatta dura, perché non solo niente auto blu, ma nemmeno un autista per raggiungere gli appuntamenti di lavoro. Paradossale anche la dotazione dell'iPad, cioè gli hanno dato l'iPad privo della scheda per la connessione. Ma il palazzo è dotato di wifi e quindi il collegamento gratuito, hanno risposto a un nuovo assessore. Peccato, ha risposto lui, che quando sono in ufficio posso usare il computer fisso, è proprio quando esco che ho bisogno della connessione, si dovrà pagare anche quella, anche la connessione per l'iPad. Sono problemi, Adesso però una cosa che mi fa veramente diventare furibondo, ma lo dico per il futuro del paese. No, Maiella, cos'era quell'altra? Pietro? Ne abbiamo un altro, e questo lo voglio proprio raccontare. Un grazie. grazie al Corriere della Sera, Stella, mi sembra che fosse oggi l'autore, Gian Antonio Stella, per averci raccontato una cosa abbastanza sorprendente, dico abbastanza. Ci sono decine di convegni in questo paese in cui ogni volta che si parla del futuro dell'Italia si dice il futuro è nel Made in Italy, nelle nostre qualità, nei prodotti di qualità e soprattutto nel turismo. Siamo, secondo l'UNESCO, il paese al mondo che ha maggiori siti protetti. Dobbiamo puntare sul nostro turismo, sui nostri beni archeologici, sui nostri musei, sui nostri monumenti. Bene, a parole tutti d'accordo. Poi nei fatti scopriamo oggi che praticamente tutte le biglietterie dei musei statali italiani messe assieme hanno incassato nel 2012 un centinaio di milioni, praticamente il 25% in meno di quanto incassa in un anno il solo Louvre. Ora, il Louvre è un museo bellissimo, ma non è che mettere assieme tutti i vari musei italiani si può arrivare a un risultato del genere, meno del solo Louvre. E voi direte, perché i biglietti sono troppo pochi? Troppo economici? No, non è proprio così, perché da noi sostanzialmente per vedere i nostri musei nella media nazionale pagano il biglietto 16 milioni di visitatori su 36 milioni, gli altri 20 milioni entrano gratis e sono italiani, non sono portoghesi, cioè, entrano tutti gratis, 20 milioni. Pensate che in Veneto pagano il biglietto il 67% dei turisti nei musei, in Piemonte solo il 40%, in Liguria il 35%, è vero che la Liguria, però insomma, ragazzi, non si può avere un visitatore su tre che paga gli altri due a sbaffo, se no è chiaro che si arriva a risultati come quelli che sto per leggere. 26 euro di incassi l'anno per ogni dipendente, questo è quanto incassano i musei e i siti archeologici calabresi, per cui è chiaro che con 26 euro all'anno al dipendente gli paghi forse la diaria di un giorno, e va tutto a carico della collettività e quindi anche a carico nostro, e in una regione che è un patrimonio saputo gestire, tutelato, è un patrimonio unico di archeologia. Ma non basta, perché pensate che in Campania entra gratis un visitatore su due, in Friuli Venezia Giulia 9 visitatori su 10, quindi è più virtuosa la Campania, attenzione. Andiamo avanti, perché qua dopo ormai siamo a quasi a 4 mesi dall'inizio del 2013, la regione Sicilia non è ancora in grado di dirci, dire a se stessa, come è andato il 2012 nei musei. Ha un unico dato: nei primi 6 mesi del 2012 gli incassi sono calati del 7,5% e i visitatori paganti hanno fatto meno 10%. Complimenti. Nel 2011, dove abbiamo invece i dati complessivi, ci sono delle notizie pazzesca. Allora, io vorrei un po' di solidarietà per i 400 turisti paganti all'anno, vuol dire poco più di uno al giorno, per l'area archeologica di Megara Iblea, oppure il Museo Archeologico Ibleo di Ragusa, che ha un visitatore e mezzo, non ho capito il mezzo cosa voglia dire, cos'è, un nano, non so, un visitatore e mezzo al giorno. Al Museo Archeologico di Marianopoli, 2 visitatori alla settimana, magari una coppia, per cui dovremmo anche ridurre la media, per un incasso, se si tratta di adulti senza riduzioni, di 4 euro, quindi 16 euro al mese, 192 euro l'anno di incasso in un museo. Ma la solidarietà più forte, perché vorrei avere quasi un minuto di silenzio, va all'unico visitatore, pensate che solitudine, che lui è da solo, non potete, nessuno con cui commentare, nessuno con cui chiedere si sposti per favore, dov'è il bagno, la fila, non so, la guida, da solo camminava per queste sale a Ravanusa, che non è più nell'elenco della regione Sicilia, perché per avere un solo visitatore, magari scopriamo pure che sarà sbagliato o che pioveva, per un solo visitatore in un anno, immagino coccolatissimo con tutti che gli prendevano il cappotto, lo accompagnavano in ogni singola sala, abbiamo speso 340.000 euro per gli stipendi dei 10 custodi e la manutenzione, cioè 10 custodi per un solo visitatore. Ricordo un po' certi prigionieri, o meglio, condannati nazisti, quando restava solo lui e con più secondini che carcerati. Ecco, 10 custodi e un unico visitatore, immagino applaudito a questo punto quando è entrato. Io vorrei un applauso per questo visitatore che, se si è ripigliato dallo shock di restare per un intero pomeriggio da solo a visitare il museo di Ravanusa, complimenti, perché ci è costato, caro visitatore, lei ci è costato 340.000 euro per sto giochetto. Si vergogni. L'ascoltatore mi scrive: guardi che lei sta dicendo sciocchezze, i dati non contemplano le tessere, abbonamenti, musei. Ho capito, però lei mi deve spiegare perché l'incasso, a me non interessa come uno paghi, se si è fatto un abbonamento per tutti i musei, però perché l'incasso dei musei calabresi è di 26 euro per ogni dipendente e l'incasso del Museo Archeologico di Marianopoli è stato di 192 euro in un anno. Cioè, quando da piccoli andavamo a vendere i fumetti incassavamo molto di più in un giorno, no? Quindi la prossima volta che sento qualcuno che mi dice bisogna puntare sulla nostra cultura, sulle siti archeologici, magari gli ricordo anche questi dati. Incredibile. Poi all'estero riescono a valorizzare due pietre, lo dico con massimo rispetto, per l'estero, due pietre, o addirittura adesso in Inghilterra i calchi finti di Pompei stanno creando migliaia di persone in attesa, noi non riusciamo a mettere in sicurezza Pompei. No, ma lo dico perché poi è inutile riempirsi la bocca di tanta retorica. Lì sì che siamo numeri uno. Più 0,60% Milano in chiusura, più 0,85% Parigi, più 0,80% Francoforte, più 0,50% Londra e mezzo punto percentuale in questo momento il rialzo del Dow Jones. Dopo il meteo e la pubblicità parliamo anche di borsa. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non posso continuare su come non riusciamo a valorizzare i nostri musei. Posso però aprire per l'ultima volta quest'anno una parentesi su come valorizziamo invece i nostri prodotti del territorio, perché si è chiuso ieri un Vinitaly da record, 148.000 presenze, di cui 53.000 stranieri, un 10% in più rispetto alla passata edizione. Tra l'altro quest'anno c'è anche la concorrenza di Bordeaux, oltre 4.200 espositori con aziende provenienti da 22 paesi e varie delegazioni ufficiali da 43 nazioni, tra cui per la prima volta quella del Ministero del Commercio cinese. Allora, abbiamo volutamente, per concludere, voluto mettere in evidenza il ruolo che anche in questo settore, soprattutto in questo settore, hanno le donne. Perché lo dico? Perché il mondo del vino è un mondo che parla sempre più al femminile. Allora, ascoltiamo due interviste che abbiamo realizzato con Chiara Lungarotti e Marilisa Allegrini, prima di avere un'altra donna nostra ospite. La prima è attiva in Umbria, la seconda in Veneto. Il gruppo Lungarotti ha segnato un aumento delle vendite del 100% in Russia, del 70% in Thailandia, del 250% in Gran Bretagna, del 21% in Giappone. Il gruppo Allegrini invece esporta l'80% della produzione e il 27 milioni di fatturato, con un più 20% l'anno scorso. Abbiamo chiesto a tutte e due, iniziando da Chiara Lungarotti, se questo aumento dell'export sia riuscito a controbilanciare il calo dei consumi interni. L'export è sicuramente molto importante, però noi non dobbiamo perdere di vista quello che è il mercato interno, perché prima o poi questa situazione così difficile per il paese finirà, e se si perde ora la presenza si rischia poi di essere completamente spiazzati. Dov'è che avete avuto i maggiori problemi sul mercato interno? I problemi del mercato interno sono dovuti soprattutto, devo dire, non tanto a delle diverse zone, quanto a quello che è una guerra dei prezzi che alla fine si risolve in una situazione lose-lose per tutti quanti. Perché in un'azienda come la nostra, che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, è vincente mantenere sempre una serietà in quello che è anche l'offerta. Ma la guerra dei prezzi è la conseguenza di una pressione che è arrivata dalla grande distribuzione organizzata o una conseguenza molto più strutturale di un calo del potere d'acquisto e quindi dei consumi? Ritengo che sia un mix dovuto anche a una situazione di cantine in molti casi ancora un po' piene. Ah, quindi un eccesso di stock degli anni scorsi che ha portato a abbassare i prezzi. Vorrei sapere se Marilisa Allegrini condivide questa analisi. Sì, e poi passiamo ai mercati esteri. Io credo che noi, per esempio, come Allegrini vendiamo prevalentemente nella ristorazione e quindi la ristorazione è chiaro che sta soffrendo, non vediamo molto la grande distribuzione, anzi cerchiamo proprio di destinarla solo a determinati prodotti e non ai top di gamma. E quindi la ristorazione sicuramente sta soffrendo e non abbiamo avuto calo di fatturato, abbiamo avuto una tenuta sostanziale dell'Italia, quindi io credo che già questo sia un grande risultato. E anche i primi mesi di quest'anno l'Italia ha un segno positivo. Come a Marilisa, anche noi siamo non siamo in grande distribuzione, ma siamo prevalentemente in ristorazione. Che però il Coreco ha sofferto in questi. Sì. Mercati esteri, abbiamo visto i numeri importanti nei mercati distanti e vorrei capire qual è il vostro approccio sull'Asia ma anche sul Sud America in generale, però anche dei numeri molto buoni in Europa, in particolar modo in Germania. Marilisa Allegrini, si parla molto di Cina in questo Vinitaly come già l'anno scorso, è chiaro che è l'obiettivo e il traguardo per tutti, ma in realtà quanto pesa e quanta difficoltà c'è nel penetrare questo mercato? Penso, intanto è molto difficile, la Cina pesa ancora nel fatturato pochissimo, in modo veramente limitato rispetto a tanti altri mercati e io credo che i risultati di quello che facciamo ora li vedremo nel giro di qualche anno, probabilmente lo vedranno i nostri figli, perché i numeri sono ancora sicuramente molto piccoli, è un mercato da conquistare, è un mercato da... devono capire quali sono le tipologie dei nostri vini, devono capire come abbinarli ai piatti e quello che si vende e come si vende secondo me è molto legato al brand. La Cina è un mercato che, proprio perché la conoscenza del mondo del vino italiano è complessa, bisogna riuscire a trasmettere emozione su quello che è il brand, quindi le attività di marketing che si devono fare è proprio per far conoscere il proprio marchio. Ma i risultati più sorprendenti, quindi anche più gratificanti, sono arrivati dai mercati tradizionali, Stati Uniti, Giappone, Europa, o dai mercati emergenti, ti citavo Thailandia, Brasile? Beh, e anche la Cina. Diciamo che intanto ai mercati consolidati si sono comportati molto bene, quindi Stati Uniti, tutti i mercati europei, Canada, e ci sono dei nuovi mercati che non sono la Cina ma che sono in Asia, che secondo me stanno rispondendo in modo molto positivo a quello che è il nostro modo di proporci, quindi parlo di Thailandia, di Singapore, Hong Kong con la liberalizzazione e con il fatto che hanno tolto i dazi, insomma questo sta aiutando moltissimo. Poi ci sono mercati strani, Dubai potrebbe sembrare un mercato dove il vino è fuori, off limits, non è così. Chiara Lungarotti, anche per lei da questo punto di vista, quanto sono difficili i mercati asiatici? Citavo alcuni dati però sulla Thailandia, per esempio, impressionanti, e se hanno pesato di più i mercati tradizionali, tra cui metterei forse anche la Russia, che ormai da anni è diventato un mercato per voi di sbocco, o avete avuto maggiori sorprese positive dai mercati emergenti? Noi abbiamo lavorato molto bene nel corso del 2012 e quindi nel sto inizio del 2013 con quelli che sono i nostri mercati storici, come la Germania, come la Svizzera, come i mercati del Nord Europa, ma stiamo, come la Russia anche, ma stiamo facendo un ottimo lavoro anche nei mercati asiatici, il Giappone in primis, la Thailandia, la Corea, un mercato interessantissimo che sta crescendo veramente molto bene, e la stessa Singapore, Hong Kong certamente. La Cina è ancora, come diceva Marilisa prima, è in un momento di semina e per cui vi aspettate a breve i frutti. L'ultima domanda che ho per voi e forse quella più delicata: quanto potrete reggere però con un calo continuo dei consumi interni? Abbiamo avuto anche in questi giorni un dato molto preoccupante sul potere d'acquisto, che in Italia è calato l'anno scorso del 5%, un dato così brutto non si vedeva dal 1990. È chiaro che il vino è sì, diciamo, un'abitudine, ma non è un consumo primario. e quindi rischia poi di entrare anche in una fascia sacrificabile, per così dire. Allegrini. Beh, io credo che l'Italia ha grandi potenzialità e ovviamente c'è questa fase di grande incertezza e credo che la situazione politica sicuramente non ci aiuta, però dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo essere positivi, è un paese che ha tutte le possibilità di uscire da questa congiuntura difficile e quindi io sono fondamentalmente ottimista. Poi amo il mio paese e sono così orgogliosa delle nostre produzioni che voglio che siano vendute anche in Italia. Chiara Lungarotti? Indubbiamente condivido quanto detto da Marilisa riguardo le possibilità del nostro paese, che sono veramente tante, perché noi italiani siamo sempre in grado di rimboccarci alla fine le maniche e andare avanti nonostante la difficoltà della situazione economica e contingentemente della situazione politica. Certamente oggi secondo me il consumatore è sempre più attento, proprio perché ha un potere di spesa minore, a quello che acquista e vuole spendere bene. Brave, brave tutte le donne del vino italiane e ringrazio quindi Giuseppe Rallo di Donna Fugata per averci raggiunto in collegamento. Buonasera anche a lei. Salve, buonasera a tutti. Abbiamo le informazioni sul traffico e poi concludiamo, perché ci rallegriamo dopo quello che lei non ha sentito forse, che abbiamo raccontato sui musei anche della sua regione, la Sicilia. Non si riesce a fare guadagnare e a portare a redditività il patrimonio artistico di questo paese, almeno portiamo a redditività la terra di questo paese. 349-238-6666 per i vostri sms e poi Focus Economia su Facebook. Traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Gerallo, lei condivide quello che hanno detto le sue colleghe Chiara Lungarotti e Marilisa Allegrini sui mercati esteri? In grosso modo sì, diciamo che il problema Italia è sicuramente un problema che non è soltanto la crisi economica di oggi, è un calo di consumi fisiologico che viene da lontano. Io ho fatto la mia tesi di laurea nell'87, i litri pro capite erano 80, oggi siamo a 37. È un calo fisiologico legato a nuovi stili di vita, sappiamo tutti che siamo più sedentari, mangiamo più leggero e quindi beviamo anche meno, ma molto meglio. Di conseguenza quello che è in crisi veramente in modo forte è la ristorazione, ma questo significa anche un cambio di occasioni di consumo. Sappiamo benissimo che vanno moltissimo i wine bar, che fanno una ristorazione veloce anche di qualità, e lì troviamo nuove possibilità per i vini di qualità. Per quello che riguarda i mercati esteri invece, voi esportate una quota importante come tutti devo dire i grandi produttori, sì, in questo paese. Sì, noi esportiamo il 30%, naturalmente vorremmo esportare molto di più in un momento in cui il calo delle vendite in Italia insomma sfiora le due cifre, ma anche con un 30% ci siamo difesi nel 2012. Quali sono i mercati più interessanti? 30 non è tantissimo per la media del vino, lo dico. Sì, ci sono, adesso lavoriamo tutti su circa 60 mercati e le sorprese sono enormi, a parte i mercati maturi come Stati Uniti, Canada, anche la Russia ormai lo consideriamo un po' abbastanza maturo, il Giappone, c'è questo sud-est asiatico che va avanti in maniera meravigliosa, Thailandia, Vietnam, Malesia, e soprattutto vogliono i nostri prodotti più di qualità e questo ci rende enormemente contenti, perché sono quelli che sicuramente ci danno maggiori margini. Poi sentivo parlare anche di Cina, è sicuramente un mercato dove gli italiani stanno facendo delle figuracce pazzesche, abbiamo poco più del 5% della quota di mercato contro il 50 e passa della Francia. Ma anche l'Australia, anche l'Australia ci batte alla grande in Cina. Siamo dietro a tutti, dietro all'Australia, dietro al Cile, ma dietro a valore, quindi vuol dire che veramente siamo messi male. Dobbiamo fare sistema, dobbiamo unirci, fare dei grossi investimenti marketing, comunicazione, trovare un modo di presentare l'Italia in una maniera semplice, al di là di quello che è il nostro meraviglioso caos delle denominazioni e delle etichette. Questo l'abbiamo detto spesso, siete troppi produttori, troppe etichette di territori particolari, difficile spiegare a un cinese la differenza, diciamo, tra una valle e un'altra, magari a pochi chilometri di distanza. Ma so che è il territorio, però magari digli Toscani, Firenze, Sicilia, forse ci arriva. Io avrei detto proprio Sud Italia, così uno già si fa un'idea di un po'. È drammatico, se pensiamo che un francese arriva lì e parla di cose cru e deuxième cru e punto, sì. Cioè prima categoria, seconda categoria, cioè, la cosa più logica e più facile del mondo, noi abbiamo tutte le mille sfumature di una DOCG che è peggio di una DOC, che è meglio di un IGT, che è Sicilia, che è Valle d'Aosta, vabbè, che è Collina, cioè siamo ricchissimi di cose da raccontare, ma Bisanzio, ma dobbiamo essere più schematici. Bisanzio non ha mai colonizzato la Francia, diciamo. Mi dica un'ultima cosa, sì, dottoressa Rallo, visto che lei lavora in Sicilia, mi ricollego al tema di apertura sui dati drammatici di come non sappiamo valorizzare i nostri musei anche al sud. Rispondo a un ascoltatore: il problema non è quanti visitatori hai, che i visitatori paghino o no il biglietto, certo che quello è un problema, perché dice, ma in realtà anche se uno viene gratis poi crea indotto. Il problema è che qua non viene nessuno, che i numeri sono drammatici anche nelle presenze, non solo nei paganti. Allora non riuscite, così come avete valorizzato il territorio, a creare dei percorsi di enoturismo, di enogastronomia. Abbiamo 30 secondi per la risposta. Dico, abbiamo fatto l'inferno per riavere la Venere di Morgantina, credo che siano 10 visitatori ogni 6 mesi. L'enoturismo funziona, le cantine con le porte aperte sono sempre di più, dobbiamo creare ancora più collaborazione tra di noi, più marketing, più comunicazione, ma servono anche dei voli importanti che ci colleghino velocemente con il resto delle capitali d'Europa, questo è molto molto determinante. Allora, non ho mai detto che basta essere donna per essere bravi, scemenze del genere ancora me le risparmio, bisogna essere bravi, donna, uomo, adulto, ragazzo, Grazie a Giuseppe Rallo di Donna Fugata, e mi dispiace per la Venere di Morgantina che con 10 visitatori l'anno è una zitella, è l'unica delle poche Venere zitelle. Noi dopo il GR invece andiamo direttamente sulle borse e poi sui temi di domani. In questa affollatissima e molto calda convegno di Confindustria. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso commentiamo la borsa. Leggo però un'agenzia appena battuta: il Consiglio di amministrazione di Telecom Italia ha dato mandato al manager, ai manager per definire il percorso operativo di fattibilità per la separazione della rete dai servizi che viaggiano sulla rete stessa, e ci avviciniamo quindi ai temi di borsa. Alcuni di voi vogliono conferma degli aumenti dei pedaggi. Sì, le notizie di ieri, purtroppo, di ieri e dell'altro ieri, Via Libera agli aumenti dei pedaggi autostradali rimasti in sospeso, e quindi Brescia, Verona, Vicenza, Padova, la SATAP A4, SATAP A21, Autostrade per l'Italia, attiva, e la Milano Serravalle, la SAT. Da venerdì scatterà l'aumento dei pedaggi dello 0,07%, che va a sommarsi al rincaro del 3,4% applicato dal dicembre del 2012. Invece su Autostrade per l'Italia, invece per le altre, quindi Brescia, Verona, Vicenza, Padova, SATAP A4, SATAP A21, attiva e Milano Serravalle, l'aumento medio sarà appunto del 2,9%. Andiamo alla borsa, che ha chiuso positiva, chiaramente non con il botto di ieri, più 0,60%, lo spread in calo. Bene oggi le banche, anche se non tutte. Il Banco Popolare ha perso mezzo punto, come la Popolare di Milano ha perso lo 0,76% dopo i fortissimi rialzi di ieri. Intesa San Paolo si limita il suo rialzo allo 0,16%, Unicredit più 0,90%, e invece Popolare Emilia Romagna più 1,44%, Monte dei Paschi più 1,90%. Tutte le banche che sono valutate avere tanti titoli di Stato in pancia si avvantaggiano di più del calo dello spread. Il Monte dei Paschi è una di queste. Il caso di giornata però si chiama Mediaset, più 8,42%, e poi chiaramente anche Telecom Italia, come sempre con i colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, partiamo da Mediaset e poi apriamo una parentesi invece su Telecom Italia. Ma sì, su Mediaset oggi più 8,4% nelle ultime 4 sedute, il Biscione ha realizzato più 16%, oggi, come dicevi giustamente tu, è il caso di giornata, in particolar modo dopo le indiscrezioni che usciranno domani sul settimanale L'Espresso, su questa presunta pace tra Berlusconi e Murdoch, che come sappiamo controlla Sky, che sarebbe stata sancita da un incontro ovviamente riservatissimo avvenuto lo scorso 4 marzo ad Arcore. Che cosa significa grande pace? Significa che entrambe le emittenti subiscono i morsi della crisi, del calo dei ricavi pubblicitari, e avrebbero deciso insomma di non farsi più la guerra come hanno fatto fino ad oggi. Ma c'è di più: secondo L'Espresso, Berlusconi avrebbe anche sondato la disponibilità delle tycoon a rilevare Mediaset Premium, una circostanza che comunque è stata oggi diciamo smentita parzialmente da Mediaset, che sostiene che Premium sia un asset strategico e che anzi nel primo trimestre ha registrato un aumento dei ricavi pari al 10%. Anche questi numeri oggi hanno contribuito a spingere il titolo in borsa. E i numeri sono decisamente importanti, quelli del rialzo a 1,78 euro. Telecom Italia più 1,74% nel giorno in cui il Consiglio di amministrazione, e qui abbiamo avuto diverse agenzie, avrebbe dato mandato a Franco Bernabè, e ha però affiancato da un comitato di 3 consiglieri di Telecom in rappresentanza di Telco, avrebbe dato mandato esplorativo, dicevo, per l'integrazione con 3 Italia, quindi il progetto di, con Hutchison Whampoa, che 3 Italia, la controllata italiana di H3G. E l'affiancare 3 consiglieri a Bernabè viene motivato con il fatto che l'operazione avrebbe ricadute sia su Telecom che su Telco, che è il principale azionista di Telecom. E poi poco fa, appunto, quello che ricordavo, il mandato ai manager per definire il percorso di separazione della rete. Ciao. Eh sì, oggi diciamo che è stato un consiglio di amministrazione importante, perché ha definito le 2 strade che potrebbero essere prese dall'azienda nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Da una parte l'ingresso di Hutchison come azionista di riferimento, perché va sottolineato che Hutchison è appunto interessato solo a un ingresso che la porterebbe anche attraverso acquisti da parte di parte delle quote di Telco, che la porterebbero al 29,9% di Telecom Italia, quindi azionista di riferimento. Dall'altro c'è il tema dello scorporo della rete, che come tutti possono intuire è particolarmente strategica per l'Italia, una procedura di scorporo che era rimasta nel freezer, nel congelatore per diversi mesi, che sarebbe stata sbloccata e che, come tutti sanno, dovrebbe coinvolgere anche Cassa Depositi e Prestiti come eventuale partner. Altri titoli, bene si è mossa Steam Microelectronics più 3,40, Mediolanum più 2,50 come Finmeccanica, l'1,90 rialzo di Monte dei Paschi, l'abbiamo detto 1,60 le Generali, 1,30 Snam, A2A più 1,1 come Buzzi Unicem Fiat e Terna, migliori e peggiori in assoluto, oltre a Mediaset, Movimax più 12%, Sorin più 4,54, France Telecom più 4,30, Creto Valtellinese più 4,20%, fronte opposto invece, scusatemi, primi sui motori meno 3,94, Friendly Energy meno 5,25%. Grazie a Ceo Conde nella Radio Colli Sole 24 Ore. Adesso il traffico. Focus Economia. :16, ultima parte di Focus Economia. Allora, per quello che riguarda l'ultimo tema di questo programma, di questa puntata, torniamo ad occuparci della situazione delle imprese e dei lavoratori di queste imprese in Italia. Gli allarmi lanciati dal mondo produttivo, anche l'Europa preoccupata, tutti temi che saranno toccati da domani al convegno biennale della piccola industria e Confindustria, convegno che ci aspetta essere abbastanza caldo. Un'Italia industriale in un'Europa più forte, questo è il titolo appunto del convegno biennale della piccola industria e Confindustria, che riunisce tutti i piccoli industriali, che si terrà domani e poi sabato mattina al Lingotto di Torino. Ospiti della Due Giorni, il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, il presidente del Senato Pietro Grasso, i tre leader sindacali Camusso, Bonanni e Angeletti, e poi altri personaggi tra cui Fulvio Conti, ministro legato dell'Enel, e Enrico Cucchiani, numero uno di Intesa San Paolo. Come sempre in questi casi concluderà la Due Giorni di lavori il presidente Confindustria Giorgio Squinzi. Chi fa gli onori di casa però è il presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia. Buonasera. Buonasera a lei. Più che un'Italia industriale in Europa più forte, che è un titolo molto anche così discorsivo, da quello che abbiamo capito arriverà un grido o un urlo di dolore da Torino? Sì, questo sì, perché purtroppo i dati previsionali dopo la campagna elettorale hanno dimostrato, diciamo, un'ulteriore contrazione, e su questo chiaramente la preoccupazione del sistema industriale, contrazione di consumi e contrazione di investimenti data l'ansietà, l'incertezza, sta determinando, diciamo, un elemento che in economia è non solo un grido di dolore, ma un grande problema. Lo citava Draghi qualche anno fa all'ultima relazione in Banca d'Italia, cioè l'ansietà che si sta trasformando in paura perché c'è un'incertezza incredibile. E quindi il tema lanciato dal presidente Confindustria, non tanto il fare presto, ma non c'è più tempo da perdere, trovare un governo immediatamente, subitissimo, ha detto ieri, per essere precisi, mi sembra che vi veda d'accordo. Voi notate che è aumentato, al di là della congiuntura economica, quello non dipende obiettivamente dal governo in senso stretto, sì, ma l'assenza di un governo e i tempi e il non vedere uno spiraglio in questo accordo aumentano l'incertezza del paese, quindi bloccano investimenti, bloccano scelte. È questo che voi temete? È questo che voi... Sì, sono due questioni, una di stabilità e una di qualità della politica. È chiaro che la questione stabilità non è di per sé una garanzia assoluta, il problema è quale direzione il paese deve e vuole prendere. E la rabbia, se vuole, è una doppia chiave di lettura. La constatazione di questa situazione di instabilità, che chiaramente non ci fa avere una visione, e l'altra invece è la potenzialità che il paese che ha, che è inserita nel nostro, tra l'altro, progetto per l'Italia, che prevede una via di uscita, diciamo, da una situazione in cui siamo entrati, in cui l'Italia può farcela perché ha tutti i fondamentali a posto, come paese e come sistema industriale. Ricordiamolo che siamo il secondo paese industriale dopo la Germania, nonostante i deficit di competitività che abbiamo. Qual è la preoccupazione? Che i deficit di competitività del paese in una recessione che dura dal 2007 diventano i deficit di competitività delle imprese italiane, e quindi su un tempo ormai lungo dal 2007 ad oggi corriamo il rischio che se non rimuoviamo i cosiddetti deficit di competitività, che abbiamo chiamato nodi di sviluppo, le portiamo alla paralisi il sistema industriale italiano. Siamo ad un bivio: fare delle scelte importanti per metterci in condizioni di competitività e cogliere le potenzialità di un brand made in Italy, che è uno dei brand più conosciuti nel mondo, anziché, diciamo, stare in questa situazione inerziale che chiaramente crea purtroppo gli effetti che conosciamo. Ecco, mi dica una cosa però, presidente Boccia, voi non avete invitato esponenti del governo, per quanto uscente, però ancora in carica? No, noi abbiamo mandato un invito, a tutti, chiaramente non li abbiamo invitati alle tavole rotonde, perché il dibattito è rivolgersi ai partiti che sono in Parlamento, perché se è vero come è vero che siamo in una situazione di emergenza economica e abbiamo dei dati dell'economia come se fossimo in una economia di guerra, purtroppo siamo ritornati a un reddito pro capite del 96, vorrei ricordare che nel 45, quando uscimmo dalla guerra, ritornammo a un reddito di 20-30 anni precedenti, quindi siamo in una dimensione di quel tipo. E l'appello ai partiti è quello, e quindi a coloro che sono in Parlamento, tutti, i nuovi compresi, tanto per essere chiaro, è quello di una chiamata alla responsabilità nazionale, se l'economia reale è una questione nazionale, come secondo noi lo è, ed è una questione di interesse nazionale. Ma dobbiamo attenderci, dico, non li avete invitati perché avete paura dei fischi della sala anche? No, assolutamente, anche se penso che domani, diciamo, avremo qualche sorpresa perché qualcuno verrà a trovarci. Assolutamente siamo rispettosi. E chi? Come dire, di elementi. E chi, Boccia, potrebbe venire a trovarvi? No, no, abbiamo, come dire, via segreteria abbiamo avuto qualche telefonata, può darsi che avremo qualche ministro che verrà a trovarci, chiaramente la cosa ci fa solo piacere. È chiaro che stiamo parlando di un governo passera, quindi non lo facciamo, diciamo, potrebbe essere passera, diciamo, non lo facciamo, come dire, per una nota polemica. Stiamo parlando, ai noi, di un governo uscente, quindi diciamo noi il problema di domani è che ci rivolgiamo, come dire, alle questioni del futuro del paese, non di quello che è stato fatto, di quello che si può fare nel presente. E purtroppo la responsabilità è dei partiti e della, come dire, del Parlamento e di chi ha governato in questi anni, anche, diciamola poi, poi tutta. Certo, ai noi. No, perché alcuni partiti sono all'opposizione, altri sono al governo, è giusto anche ricordarselo, a seconda di chi vinca poi le elezioni. Certo. Vabbè, ho capito che verrà passera domani il presidente Boccia. No? Dovrebbe esserci. Allora, andiamo avanti con invece i vostri temi, perché noi abbiamo raccontato in questi giorni i dati drammatici di quante imprese hanno chiuso nel 2012, una media che intanto è in aumento anche rispetto al 2011. E siamo a un più 32% sul 2009, ma soprattutto con una parte più virulenta negli ultimi tre mesi del 2012, 350.000 imprese hanno chiuso, è un calcolo, vuol dire 115.000 imprese almeno al mese, abbiamo fatto ieri il calcolo di quanto significa 47 imprese al giorno, e levando le ore notturne, dicevamo, per far capire la drammaticità, durante l'ora e mezza di questo programma sostanzialmente chiudono tre imprese, non per colpa nostra. C'è stato un tentativo da parte del governo, tardivo per carità, però di immettere un po' di liquidità. Ora, io sono d'accordo con voi, non è un regalo, non è un aiuto, sono pagamenti per servizi e beni già resi, quindi il minimo della vita è essere pagati, però il decreto del governo è stato fatto, c'è qualche dubbio da un lato sui tempi, perché se diventa molto complicato, troppi passaggi, chiaramente questo, oltre che disincentivare, allunga i tempi per ottenere i pagamenti dalla pubblica amministrazione, ma oggi la Confederazione Nazionale Artigiani sostiene che dentro il decreto ci siano oneri, quindi maggiori tasse, maggiori oneri per le imprese e i cittadini pari a 10 miliardi, e questo sarebbe, se abbiamo capito bene, sarebbe il modo in cui il governo recupera anche parte dei soldi. Questo a noi non risulta, a dire il vero, chiaramente lo approfondiremo. È evidente, come dire, che ci sono due questioni, una positiva, perché il fatto che si prenda atto di questa questione che dura da anni, tra l'altro, è un elemento importante. Certo, la questione quantitativa non risolve il monte stock di debito, però comunque parliamo di 40 miliardi che non sono, diciamo, poco se arrivano come flusso alle imprese. Quindi bene, sicuramente dei miglioramenti ci sono stati rispetto alla prima bozza, ci sono delle criticità sulle procedure che a noi preoccupano perché potrebbero rallentare il flusso di liquidità che va verso le imprese, ci sono forse delle penalizzazioni eccessive per le regioni che hanno deficit e che chiaramente non potrebbero contrarre ulteriori mutui se richiedono appunto mutui per quanto riguarda il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Queste cose vanno riviste, speriamo, in Parlamento. Il decreto però non va riscritto perché corriamo il rischio che perdiamo altro tempo e spostiamo in avanti una soluzione che intanto andrebbe portata a casa. Poi dopodiché si pone la questione parallela degli altri 50 o 60 miliardi di debito della pubblica amministrazione verso i privati, che va comunque affrontata perché, come ricordava lei, è una questione solo di normalizzazione, cioè mettiamo in condizioni di normalità il sistema economico, ma non è sicuramente un fattore di competitività. Certamente aiuta in termini di flusso di liquidità, ma non è, come dire, un elemento di competitività di per sé. Ecco, ieri, per concludere, presidente Boccia, il suo collega presidente degli industriali veneti Roberto Zuccato ha detto in maniera anche abbastanza concitata, calda, ma insomma non si illudano che, avendo sbloccato una piccola parte, una parte dei pagamenti che c'erano dovuti, questa sia l'iniziativa e finisca qua come iniziativa per il mondo delle imprese e degli occupati. Noi abbiamo bisogno di altro, e citava per esempio lo sblocco di alcuni investimenti anche su base europea. Su questo, secondo lei, domani a Torino potrebbe arrivare addirittura un patto tra voi come Confindustria e i sindacati, visto che i tre segretari principali li avete tutti invitati? Esattamente questo. Io penso e noi pensiamo che in un momento come questo le parti sociali debbano assumersi una grande responsabilità. E se chiediamo alla politica coesione per portare il Paese fuori da questa situazione, dobbiamo dimostrare di saperlo fare anche dal nostro interno con un'agenda per la competitività nel Paese, affrontando le due grandi questioni, la specificità italiana, quindi global tax rate, costo dell'energia, spread alto, quindi debito, deficit e crescita, e la specificità europea. Ma sulla specificità italiana occorre aprire un grande confronto, fare velocemente, costruire un percorso di competitività nell'interesse di tutti, perché un mondo senza fabbriche e senza industrie, un mondo senza imprenditori e senza lavoratori. E quindi Torino è il momento in cui ci guardiamo in faccia, noi rappresentanti dei lavoratori, e cerchiamo di costruire un percorso data la consapevolezza comune della situazione di emergenza che l'economia reale. Ma se è vera come è vera e la sentiamo tutti addosso, dovremmo agire tutti di conseguenza. Ma secondo lei arriverà alla fine un documento unico, Io penso che a Torino non avremo un documento, chiaramente. A Torino noi faremo delle proposte, dopodiché il giorno dopo queste proposte saranno dibattute insieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, concluderà il presidente Squinzi, e per me Torino è un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie per domani al presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo in onda domani dalle 17 in poi, da Torino, dal Lingotto appunto. Intanto, da Sebastiano Berisoni, l'augurio come sempre di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.